No, io volevo fare una osservazione che sì, rilacciamo al discorso di prima. Rispetto anche un po' alle modalità e alla comunicazione, così, no? Anche a questa questione dei risultati, è un aspetto un po' che mi mette molto in difficoltà, no? Questo di dire ma gli altri come rispondono, ma cosa stiamo facendo in questa direzione, così, no? E anche, dicevo prima, non ho condiviso molto alcune cose che sentivo in particolare, perché ho l'impressione che appunto abbiamo un po' quest'ansia, no? di capire subito se quello che stiamo facendo ci porterà da qualche parte o meno, e forse non proviamo, nonostante no, lo diciamo, però poi non proviamo veramente ad avere questo orizzonte un po' più ampio, per cui magari una cosa che è accaduta, non so, moltissimi anni fa ha prodotto un risultato 20 anni dopo, e questa cosa la possiamo vedere 20 anni dopo, perché per esempio faccio proprio un esempio molto semplice, non so, spesso io sento parlare della lotta in Valsusa, però tantissimi anni fa c'erano dei compagni che in quel luogo lì facevano, o comunque sono stati accusati di aver fatto dei sabotaggi. Questi compagni sono anche morti, che si chiamano Sole e Baleno. Probabilmente quella lotta è nata in quel modo. Io non penso che quello può essere stato un inizio, no? 20 anni dopo c'è una situazione di conflittualità in quel posto, quindi forse il risultato si vede oggi, insomma. Cioè, però non era neanche quello l'intento, penso, di quei compagni. Insomma, c'era una nocività a cui si volevano opporre e l'hanno fatto. Per cui forse, e penso che sia questo l'elemento più importante, no? Cioè, ci sono delle nocività a cui ci vogliamo opporre. Noi proviamo a fare un discorso più ampio, perché non è soltanto la nocività ambientale quella che non sopportiamo, ma sono tanti altri elementi che a quella nocività si legano. Per tra esempio cui la per cui sì, infatti l'esempio sia delle discariche di Napoli, o anche l'esempio della Valsusa, o anche l'esempio del TAP, per esempio la militarizzazione che può conseguire a questa nocività, no? In cui lo Stato si dimostra per quello che è veramente. Sono per noi dei problemi grossi a cui ci vogliamo opporre, quindi proviamo a farlo, insomma. Adesso, ed è questa, penso, che sia la cosa più importante. Al di là poi se le persone ci capiranno o non ci capiranno, perché anche questo discorso, no? Io non riesco a comprenderlo fino in fondo, questa questione del quanti siamo, chi è che ci comprende, ma come riusciamo a interloquire con gli altri, perché mi sembra che guardiamo sempre gli altri come altri. E questo è un discorso che io non riesco a comprendere fino in fondo, perché nel senso che io non voglio cercare altri e che sono altri da me, io vorrei cercare dei complici, no? Vorrei cercare delle persone che si vogliono opporre, come mi voglio opporre io. Poi le modalità possono essere tantissime, possono essere differenti, non voglio insegnare niente, né voglio che mi si insegni niente, per cui però in questo anche ci può essere, secondo me, comunicazione, no? Però ho l'impressione che cerchiamo sempre gli altri, considerandoli però sempre altri da noi. E invece, ed è questa è una cosa che non, sulla quale non mi ci trovo. E quindi preferisco pensare di poter trovare per strada, nel mio percorso, altre persone che vogliono fare un altro percorso, oppure il mio stesso percorso, altri percorsi, insomma. Cioè, sono delle cose che vedrò man mano, no? Con l'obiettivo di oppormi alla nocività e a tutto quello che le è attorno. E rispetto invece alla questione dell'efficacia, ci sono delle cose che magari che pensiamo che non possano essere efficaci, perché appunto abbiamo, secondo me, un po' tutti questi retaggi, no? In mente. Però per esempio nel Salento partire subito, no? con un discorso che era né qui né altrove, cioè dire subito che il gasdotto non lo vogliamo né nel Salento né da nessun'altra parte, questo discorso non veniva, è stato fatto all'inizio soltanto da noi, da altri gruppi che si opponevano a questo gasdotto non veniva fatto, c'era la possibilità, si poneva la possibilità nel Salento no, però magari da un'altra parte sì. Man mano invece questo discorso del né qui né altrove è passato e tanti anche altri hanno cominciato a parlare di né qui né altrove, no? Quindi non va bene nel Salento, non va bene da nessun'altra parte. E secondo me questo è un discorso molto semplice, che senza nessun elemento sovraggiunto è un discorso molto semplice ed è assolutamente facilissimo da comprendere e secondo me è molto immediato, no? È un discorso molto immediato che le persone inevitabilmente dicono: ma se nel Salento non ci serve questo gasdotto, perché deve servire da un'altra parte? Proprio non... Per cui a volte siamo noi che ci castriamo, secondo me, che non poniamo le questioni, no? Anche rispetto alla comunicazione, così come sarebbero più semplici da porre, no? Perché io ho l'impressione che questo è un momento in cui o cerchiamo di scardinare qualcosa in più, e se no, non so, però sarà tutto recuperabile. Cioè se, o pensiamo e ci poniamo nella prospettiva e nell'ottica che vogliamo scardinare qualcosa in più che della nocività immediata che ci vogliono imporre. Perché le persone sono in difficoltà, no? Cioè le persone le frequentiamo, insomma, quotidianamente, io penso tutti quanti, no? Cioè, parliamo con le persone ogni giorno e quindi ci rendiamo conto delle difficoltà tutti quanti, perché siamo, quando diciamo che siamo sfruttati tra gli sfruttati, è questo, no? La cosa, se no non avrebbe senso. E quindi secondo me, proprio i discorsi veramente trovano altri fronti e quindi proviamo a scardinare qualcos'altro, e se no, boh, non so.